Tanner, noi non siamo turisti, siamo viaggiatori. Ah, ma che differenza c'è? Un turista è quello che pensa al ritorno a casa fin dal momento che arriva, Tanner. Laddove un viaggiatore può anche non tornare affatto. Compagni di viaggio. Compagni di viaggio. In India con Giancarlo De Cataldo. When I walk beside her, I am the better man. When I look to leave her, I always stagger back again. Io credo che tutti noi ci sforziamo inconsciamente, poi qualcuno ci riesce, qualcuno non ci riesce, di passare dalla condizione di turista a quella di viaggiatore, una cosa molto diversa. Il turista è intruppato in un viaggio organizzato, segue alcune mete determinate, è sicuro di quello che va a incontrare, non rischia niente. Il viaggiatore cerca disperatamente in questo contesto globalizzato, uguale dappertutto, perfettamente decifrabile, no? Dai segni mediatici anche del nostro universo di riferimento, cerca disperatamente una diversità e anche un rischio. La voce che avete appena sentito è quella di Giancarlo De Cataldo, che è davanti a me nella sua casa di Roma. Mi sta per raccontare di persona della sua esperienza da viaggiatore, quella fatta in India ed è scritta nel suo libro L'India, l'elefante e me. Nome: Repubblica Indiana. Capitale: Nuova Delhi. Confini: a ovest col Pakistan, a nord con Cina, Nepal e Bhutan, a est con Myanmar, l'ex Birmania e il Bangladesh. Superficie: 3.166.414 km². Abitanti: 1.173.108.000. Clima: tropicale temperato. Forma di governo: Repubblica parlamentare. Lingua ufficiale: Hindi, inglese e altre 21 lingue ufficiali. Fuso orario: 5 ore e 30 avanti rispetto al meridiano di Greenwich e 4 ore e 30 avanti rispetto all'Italia. Documenti: passaporto con almeno 6 mesi di validità, visto. Moneta: rupia indiana, una rupia indiana uguale 0,016 euro. Religione: in India convivono induismo, islamismo, buddismo, la religione Sikh e il cristianesimo, insieme con religioni minori che comprendono lo zoroastrismo e il jainismo. Prefisso internazionale più 91. Sentendo le sue prime parole su questo paese incredibile, avverto la stessa sensazione che ho avuto leggendo il libro. L'India non è solo un luogo geografico. Se vi danno una botta in testa mentre state passeggiando per via Condotti a Roma, vi caricano su un'astronave e vi portano a Rodeo Drive o a Berliner Strasse o nel cuore di Londra o di Parigi o di Melbourne o di New York e voi vi risvegliate, non capite immediatamente di essere stati portati in un altro posto, anzi forse non lo capite mai, perché vedete delle insegne con delle ditte di moda, vedete dei grandi negozi di informatica, vedete degli schermi che rimandano immagini del mondo occidentale, vedete lo stesso universo di riferimento che avete lasciato e non lo sapete che gli extraterrestri vi hanno dato una botta in testa e vi hanno spostato, perché viviamo in un mondo completamente uguale a se stesso dappertutto. Se invece vi danno una botta in testa e vi scaricano in una strada di Calcutta oppure di Bombay o di Benares o sulle rive del Gange, vi rendete conto immediatamente che siete in un altro mondo. Ecco, questo è un punto di partenza, secondo me, per capire il tipo di sensazioni e di emozioni che ti può scatenare dentro un viaggio in India, fin dal momento in cui metti piede in aeroporto, in questa confusione indescrivibile degli aeroporti internazionali, che tendenzialmente dovrebbero essere aeroporti d'affari anche, e che invece, e lo capisci immediatamente, in India sono, come dappertutto, dei teatri travestiti da aeroporti. Mentre De Cataldo prosegue nella sua chiacchierata e cerca di trasferirmi un po' del senso dell'India, ripenso alla poesia di un poeta indiano, Kabir, che lui ha messo nelle primissime pagine del suo libro. Solleva il velo che oscura il cuore. Là troverai quello che cerchi. Stavo passeggiando per le strade di Benares. Io, scusate, continuo a chiamarli con la vecchia nomenclatura. Voi sapete che le città indiane, a un certo punto, a metà degli anni 90, hanno ripristinato, per decisione del governo, che allora era un governo Janata, cioè un governo, diciamo, del nazionalismo hindu, hanno ripristinato le originarie denominazioni. Benares, quella che noi tutti conosciamo come Benares, la più santa tra le città sante, si chiama Varanasi in realtà. Anche se a voler essere fisiologici, il suo nome originario sarebbe Kashi, cioè la città della luce. E l'allusione ai milioni di luci che si accendono sulle rive del Gange all'alba e al tramonto per le cerimonie di purificazione rituale per l'arti, che tra l'altro un occidentale non può mai capire fino in fondo, perché si riuniscono e cantano inni a Shiva per 7 ore, cantano e sono tutti lì che cantano. È una manifestazione di religiosità talmente sfrenata e talmente diffusa che rasenta l'ateismo, come in certe, o meglio, che investe in pieno l'ateismo, cioè che è una manifestazione orgiastica collettiva di uomini, quasi nello stesso tempo un prendere le distanze dalla divinità, ma un riconoscere la divinità. La religiosità che rasenta l'ateismo e che forse solo l'India ci può regalare è un'immagine che, sentite in quel salotto nella capitale a 2 passi da San Pietro, mi piace moltissimo. Giancarlo racconta a ruota libera, tanto che ci perdiamo da dove siamo partiti. Compagni di viaggio. Compagni di viaggio. In India con Giancarlo De Cataldo. When I walk beside her, I am the better man. When I look to leave her, I always stagger back again. Sono a Roma, a casa di Giancarlo De Cataldo. Mi sta raccontando del suo viaggio in India. Anzi, mi sta portando con sé per le strade delle diverse Indie che lui ha incontrato. Perché non c'è una sola India, come ci terrà a sottolineare lui. Appena comincia col descrivermi una situazione, subito ne seguono altre, i racconti si rincorrono, come se tutti i ricordi premessero per uscire allo stesso momento. Ci siamo lasciati prima, mentre passeggiava per le strade di Benares, gli chiedo di riportarmi là. Passeggio per le strade di Benares e mi sento urtare alla schiena. Naturalmente, conoscendo la pressione umana degli indiani, ho pensato: è qualcuno che va di fretta, piuttosto cafone. Mi sono voltato, pronto a dirgli: ma che diavolo ti viene in mente? E mi sono trovato davanti un toro. E ragazzi, il toro è veramente una bestia imponente ed enorme. Ho fatto un salto di lato, terrorizzatissimo, perché noi, per noi occidentali, il toro è appunto un animale pericoloso, inquietante. E a un certo punto mi sono accorto che tutti intorno a me ridevano. Dico, il mio amico, la mia guida a Benares, gli ho detto: ma perché ridono? Il mio amico italiano, ma diciamo pienamente integrato nella cultura indiana. E lui mi diceva: perché questo toro è un fessacchiotto, vive vicino al mercato della frutta e si mangia un sacco di patate, cose, diciamo. Un giorno il proprietario di una bottega se lo è trovato davanti. Se lo è trovato davanti e dapprima si è spaventato, poi ha visto che questo toro è veramente il più fesso di tutta la stirpe dei tori. Ha cominciato a nutrirlo. Il toro ha preso posto, sa quando apre la bottega, sa quando chiude, e gli porta fortuna, perché la gente accorre da un venditore che è stato così fortunato da avere un toro tutto per sé, perché il toro è un animale sacro. India e animali sacri, anzi in questo caso vacche sacre. Uno si immagina le classiche vacche magrissime che camminano per le strade indisturbate e che abbiamo visto in centinaia di film e documentari. Certo che vedersi davanti un toro non deve essere proprio la stessa cosa. Giancarlo prosegue il suo racconto tra animali e divinità e ne cita soprattutto una, Ganesh, con la faccia da elefante. Mi dice essere il dio del cominciamento, il protettore delle imprese ardite, quello che propizia il futuro. Ma è anche il protettore degli scrittori e dei criminali. Quindi, aggiunge, per lui che scrive di cose criminali abitualmente, è un doppio protettore. Proprio in quel momento entra in salotto il suo cane, Beckett, che viene a farmi le feste. E Giancarlo procede col suo cammino nei ricordi. Poi gli odori degli animali, meravigliosi. Io, devo dire, da quando sono stato in India lavo molto meno il mio cane, perché questo odore di bestie che gira completamente nella strada. Sì, è vero, qualcuno mi diceva sempre, stai attento, vai in India, l'India puzza. Ma è un odore meraviglioso. È una sensazione di una vita, come dire, di una vitalità elettrica nella quale anche l'animale ha il suo ruolo, e il suo ruolo è pieno, è totale, cioè un ruolo della natura che non è del servo dell'uomo, ma è di un altro essere a cui è stato assegnato comunque un posto da qualche divinità, o forse dall'accordo tra gli uomini e le divinità, e che è lì e ti dà qualcosa e qualcosa prende da te. Si vive per strada, specialmente nelle grandi città, ma anche nei villaggi. La pressione, la quantità della gente è impressionante. La pressione che ti può esercitare, perché sei un occidentale, perché sei comunque diverso da loro, perché ti guardano con curiosità e anche con avidità, perché gli porti dei soldi, e fondamentalmente l'India nelle campagne è un paese povero, a volte rischia di mandarti in crisi, cioè la senti come una pressione eccessiva. Una volta io mi sono lamentato un po' di questo, ne parlavo con Ashok Vaipay, che è un poeta, insomma un intellettuale indiano. Eravamo lì in un club di quelli dove lui mi accolse dicendo: qui qualcuno dice che si riuniscono i cervelli pensanti della società indiana, e purtroppo a volte pensano veramente. Questa è stata la battuta con la quale mi ha accolto, gentiluomo anglo-indiano per intenderci. E io gli ho detto: ma insomma, non ce la faccio più, sono tutti addosso, ti vengono addosso, vogliono tutti qualcosa da te. E lui mi ha detto: ti hanno usato per caso della violenza? No, ho detto assolutamente no, è semplicemente la pressione. Beh, allora prendila da questo punto di vista, stanno facendo il loro lavoro. E qui penso a una frase che mi ha fatto molto sorridere del suo libro. Forse anche Siddhartha ha conosciuto qualche momento di crisi? Mi ha ricordato una battuta che mi ha fatto una volta Moni Ovadia, a un matrimonio. Lui aveva ingaggiato e portato a questo matrimonio dei musicisti zingari. E allora io gli ho detto: vabbè, ma suonano bene. E lui mi ha detto: sì, io quando li ho incontrati per strada gli ho detto: ma voi cosa fate? E loro mi hanno detto: facciamo quello che fanno da sempre tutti gli zingari del mondo, sopravviviamo. Allora, se tu pensi che il nucleo più antico degli indiani del sud, cioè quella che doveva essere l'antica popolazione dravidica, in realtà dovrebbe avere lo stesso DNA dei gitani, allora pensi che c'è una singolare contiguità e una singolare, se vuoi, somiglianza in questo concetto del sopravvivere, che è un concetto che, una volta accettato, si avvicina molto a quello del vivere, no? Diventa un modo di vivere, un modo di essere, e alla fine, attraverso, forse se vuoi, un ragionamento anche intellettuale, una intellettualizzazione, finisce che questa pressione della gente non ti dà più fastidio. Impari che c'è uno sguardo, c'è un tipo di sguardo. Allora, intanto la premessa è che tu sei sempre un occidentale, per cui sei sempre diverso, per cui sei sempre un oggetto. E a volte puoi dare un cioccolatino a un bambino, o puoi una penna a un ragazzo, o 100 rupie a un mendicante, e quel mendicante può essere per esempio un bramano, cioè può essere di una casta altissima, però c'è uno sguardo che ti dice stai lontano, uno sguardo che ti dice va bene, sei il prescelto, perché non si può dare a tutti, uno sguardo che ti dice guarda adesso non è proprio cosa perché mi girano, sto pensando ad altro, è uno sguardo che dice toh, vediamo un po' fin dove arrivi. Sono dei codici, sono dei veri e propri codici di comunicazione dai quali è assolutamente estranea la violenza. Chissà se basta davvero un viaggio in India per riuscire ad avere tanta consapevolezza di quello che ti si muove intorno. Compagni di viaggio. Compagni di viaggio. In India con Giancarlo De Cataldo. When I walk beside her, I am the better man. When I look to leave her, I always stagger back again. Sono in giro per le strade affollate dell'India attraverso i racconti di Giancarlo De Cataldo. Star dietro ai suoi ricordi è emozionante, tutto è così vivido. Abbiamo avuto un incontro ravvicinato con un toro, abbiamo assistito a riti religiosi sulle rive del Gange e offerto soldi a dei mendicanti. Adesso però è arrivato il momento di chiedere qualcosa sulle caste. Quando parli con un indiano ti dicono immediatamente tutti, trasversalmente, tre cose. Primo, che sono orgogliosi della democrazia. Anche la persona più ignorante, diciamo, che non ha studiato o poverissima, quelli del villaggio, cioè, votano, sono orgogliosi di votare e sono animati da questa profonda convinzione che la loro crocetta sulla scheda elettorale comunque aiuterà il progresso del loro paese. Quindi insomma ci credono, questo atteggiamento un po' spessato, un po' annoiato che abbiamo noi nei confronti della democrazia, per loro che sono giovani alla democrazia non esiste assolutamente. La seconda cosa che ti diranno è che sì, le caste fanno parte della tradizione indiana, ma che ormai sono concretamente superate, perché ti faranno questo discorso, ti diranno l'essenza e lo spirito puro delle caste è nella non contaminazione, nel non rapporto tra una casta e l'altro, nell'alleanza occasionale, ma diciamo un passaggio di casta è del tutto inimmaginabile, specialmente nei confronti dei Dalit. Mi hanno anche spiegato che quelli che noi chiamiamo intoccabili, in realtà il termine intoccabile non esiste, è un'invenzione occidentale. Gli inglesi, gli inglesi vedendo che noi indiani siamo molto parchi di gesti e di cerimonie tra individui, diciamo, che non appartengono allo stesso nucleo familiare, la famiglia è tutta un'altra cosa, sono affettuosissimi, ma insomma noi siamo un po' cerimoniosi, un po' distaccati, ci tocchiamo poco, hanno maturato la convinzione che esistessero questi intoccabili. In realtà il discorso non è questo. Beh, meno male che a notarlo sono stati gli inglesi, che non brillano di certo per effusioni in pubblico. E come terza cosa ti diranno quasi tutti, io non credo nelle caste, perché le caste sono superate nei fatti. Quando tu vai in un ristorante non sai se il cibo che mangi lo ha manipolato un cuoco, un inserviente, ksatria o dalito o quel che sia, per cui insomma ti accontenti. Ciò detto, concludono immancabilmente, io appartengo ad un'antica e luminosa famiglia di Brahmani. Questo per dire che in realtà questo fa parte molto dello spirito indiano che ho imparato a conoscere, uno spirito molto prismatico. C'è un come dire, c'è sempre un'India dietro un'India, dietro un'altra India, dietro un'altra India. La Costituzione riconosce le caste e formalmente anche sostanzialmente si impegna per il superamento del sistema castale. Da un lato lo riconosce, dall'altro lato con il sistema delle quote cerca di garantire, di stabilire un non predominio di una casta sulle altre. Ma il sistema castale è fortissimamente sentito ancora. Si parla di caste e Giancarlo mi dice che anche gli annunci matrimoniali sul Times of India sono divisi per caste. Sembra così strano per noi. Però io riflettevo anche a questo. Quanti italiani possono realizzare un salto sociale partendo dalle campagne o dalle periferie nell'arco di una o due generazioni, in un paese democratico come l'Italia, che ufficialmente non conosce le caste, non conosce il razzismo, non conosce differenze di età, sesso, razza, religione. Quanti? No, nel senso che il sistema castale è la costituzionalizzazione di un sistema di differenze. Nella gerarchizzazione della società che comporta il sistema delle caste c'è anche il fascino che il sistema politico-religioso induista ha esercitato, per esempio, sui nazisti. No, cioè il nazista impazzisce davanti al sistema delle caste, no? Lo immagina come un sistema di derivazione direttamente divina, quando in realtà è politicamente dato e nasce da un'alleanza che tanti anni fa si consumò tra una classe di guerrieri e una classe di preti, perché questo in sostanza, che poi sia riuscito a penetrare nelle coscienze, a informare di sé la civiltà e lo spirito indiano, questo è un altro discorso, ma insomma, come tutte le religioni, è un fenomeno storicamente dato. Però ecco, lì è un sistema, come dire, riconosciuto e, se si vuole, anche combattuto in questo momento, o perlomeno del quale si dice che si tende a combatterlo. E dall'altra parte, invece, da noi è un sistema occulto, ma che però condiziona pesantemente le nostre esistenze. Mi domando quale sia il migliore dei due. Quale sia il migliore? È una domanda più che lecita. Più sento parlare dell'India, più mi rendo conto che c'è sempre un'India dietro un'altra India, dietro un'altra India ancora, come mi ha fatto notare il mio accompagnatore. Viene da pensare all'apologo jainista dei cinque ciechi dell'Hindustan, che volendo capire come era fatto un elefante, se ne fanno portare uno e cominciano ad esplorarlo, ciascuno per conto proprio. Il primo afferra la proboscide e dice: «Ah, ho capito, l'elefante è come un serpente!» Il secondo, che invece tocca il corpo dell'animale, dice: «Ma no, è come un muro!» Il terzo, impugnando una zanna, protesta: «Sbagliate tutte e due, l'elefante è un palo!» Gli ultimi due, uno aggrappato alla coda e l'altro alla zampa, gridano: «No, l'elefante è una corda! L'elefante è una colonna!» E vanno avanti a discutere senza riuscire a mettersi d'accordo sulla natura dell'elefante. Ecco, l'India è un po' così. Dipende da quale parte la afferri. Ma capirla nel suo insieme non è di certo facile. Compagni di viaggio. Compagni di viaggio. In India con Giancarlo De Cataldo. When I walk beside her, I am the better man. When I look to leave her, I always stagger back again. Siamo in India attraverso le parole di Giancarlo De Cataldo. Mentre lui mi parla, mi metto nei panni di quel viaggiatore che all'inizio della nostra chiacchierata lui ha distinto così bene dal turista. E gli chiedo se per quest'ultimo ci sia posto comunque in un paese come l'India. Però non è che chiunque vada in India deve necessariamente immergersi nello spirito religioso, sentire delle forme di comunicazione. Insomma, allora, se sei un turista bestia e vuoi restare tale, ti puoi divertire ugualmente in India, nel senso che vai in un grandissimo albergo, paghi una guida che ti tenga blindato dalle altre guide, possono accadere delle risse feroci per, diciamo, per spennare l'occidentale, e segui determinati circuiti, per esempio lo shopping sicuro è nei negozi governativi, nel senso che da un lato garantiscono una qualità della merce e dei prodotti, sono, io devo dire, ho portato dall'India stoffe, statuette, e sono veramente molto belle. I prodotti di artigianato, specialmente di artigianato tribale delle regioni dell'Orissa o del nord, diciamo del Rajasthan, tappeti e coperte molto belli, sono quelli, insomma, che si vedono nelle case, eccetera. E quello è uno shopping sicuro, naturalmente uno shopping a prezzi occidentali. Poi c'è uno shopping più rischioso, quello delle statuette finte, quello dei finti guru, quello dei mercatini dove ti assaltano, quello delle spezie. Per esempio, se voi vi affidate a una guida e la guida vi indica un negozio spicy market, è una cosa che è successa a me in Rajasthan, e voi andate a cercarlo e la guida vi darà un indirizzo, gli indirizzi sono un po' approssimativi in certi luoghi, no? Cioè il centro di Delhi a Connaught Place, Connaught Place ha anche Connaught Circle, Connaught Circle sono tre, Inner, Easter e Outer. Non si dice mai qual è il vero Connaught Circle, allora se lo chiedete a un artista, voi gli dite il posto, dice vado alla clinica del dottor X ayurvedico a Connaught Circle, e lui vi chiede ma all'angolo con il cinema Roxy o all'angolo con il terzo settore di Connaught Circle, insomma cerchiamo Spicy Market, eccolo là, fa mio figlio, Spicy Market, mi avvicino e da dietro una voce fa signore italiano, bello, forza Italia, Spicy Market è qua, mi volto, c'è un altro Spicy Market, insomma nel giro di 10 metri ci sono 6 o 7 Spicy Market, motivo sulla guida turistica è indicato Spicy Market, gli indiani che sono furbissimi lo vedono e tutti cambiano la denominazione del negozio in Spicy Market. Che bello, un po' come in certe commedie di Edoardo o di Totò, prosegue Giancarlo, Itaggia fregà, come in quel libro famoso sull'India, il romanzo Shantaram, in cui si racconta proprio la nascita del rapporto tra un occidentale e un indiano basato su questo riconoscersi. Io sono povero e ho bisogno di qualcosa che tu, ricco, puoi darmi. È un gioco di ruoli. Voglio chiudere questo viaggio in India con un piccolo accenno a Bollywood, l'India dalla parte del cinema. E Giancarlo mi accontenta. Mi racconta di quando è riuscito a farsi ricevere da un grande produttore, tra l'altro un grande appassionato di Bud Spencer e Terence Hill, perché secondo lui è l'unico cinema che si può avvicinare a quello indiano. Ma insomma, Bollywood. Allora, a me questo l'hanno spiegato molto bene. Noi abbiamo i generi cinematografici e letterari. Il film western, il film comico, il film d'azione, il film d'amore, cappa e spada, noir, commedia all'italiana, dramma. Loro hanno le rashas, cioè hanno i sentimenti che gli attori esprimono durante la recita, sono 9 e li esprimono tutti insieme. Il patetico, il comico, il drammatico, l'erotico, il sentimentale, l'amoroso, il tragico, la morte e via dicendo. Per questo è necessario e fondamentale che ogni film di Bollywood contenga in sé un elemento di commedia, un elemento di satira, un elemento di musica, un elemento politico, un elemento... Da questo deriva il grande fascino, l'enorme fascino del cinema di Bollywood, anche nelle sue rappresentazioni più ingenue, con questi balletti, con queste rappresentazioni che, se volete, rafforzano immancabilmente lo stereotipo. L'uomo è quasi sempre, questa è una storia che, come diciamo, autore di romanzo criminale, molto mi ha affascinato quando l'ho scoperta. L'80% dei film di Bollywood sono fatti da storie di giovani di periferia che attraverso, diciamo, che diventano gangster perché sono poveri e vogliono conquistare il successo, e in genere si conquista anche una ragazzina dagli grandi occhioni, seducente e un po' sciocchina, e questo mi ha ricordato molto una storia che io ho scritto. Il viaggio è ormai finito. L'India è un po' anche nel mio cuore, anche se, come dice Giancarlo alla fine del suo libro, mi ritrovo come uno dei cinque ciechi dell'Hindustan alle prese con un elefante che difficilmente si riesce a vedere nella sua interezza. Prima di salutarmi, ci tiene però a dire un'ultima cosa su questo paese, che non è solo un luogo geografico. Ci sono periodicamente, purtroppo la situazione va peggiorando, attentati in India. E ci sono episodi di violenza tra cristiani e musulmani, episodi di violenza tra musulmani e indù, episodi di violenza tra indù e cristiani. È terribile perché l'integralismo religioso non ha mai appartenuto alla cultura indiana. E qualcuno con cui ho parlato sul posto tendeva a ricondurlo proprio a una distorsione del capitalismo, se non della democrazia, cioè a una malintesa interpretazione del rafforzamento delle fedi. Però di fatto queste cose esistono, cioè l'indole di una popolazione sostanzialmente mite e molto attaccata alla sua terra, però anche estremamente tollerante. Voi pensate, in India non è mai esistito l'antisemitismo, mai, non è mai esistito. Vederla avvicinarsi pericolosamente a delle forme di integralismo nelle regioni, per esempio, governate dagli estremisti indù, o nelle regioni in cui c'è una grande agitazione con i cristiani, è veramente doloroso, perché un altro degli effetti che ti fa l'India, alla fine o sei andato e non vedi l'ora di andartene via perché non ci tornerai mai più, o ci sei stato e non vedi l'ora di ritornarci perché comunque è un posto che ti è entrato nel cuore. A me è successo questa seconda cosa. Ora Giancarlo De Cataldo è in libreria con I Traditori, edito da Einaudi.